18 e 47 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Good News come tutti i lunedì pomeriggio. Ci dovrete scusare, per oggi siamo senza il nostro host, senza la nostra magica mano alla regia. Cercheremo in qualche modo di gestircela al meglio. Comunque torniamo con la seconda parte di musica e cinema, relazioni pericolose. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Can it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I ain't the feeling when you're high, but you underneath the center. Good news, good news, that's how they wanna hear. No, they don't like you when I'm done. I wanna feel you, know I make them so uncomfortable, so different. What's the difference? Ed eccoci di nuovo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, radio libera da padroni e padrini, qui di nuovo con Giulio Mezza e Gaia Siria Meloni. Salve. Buonasera, rieccoci. Torniamo, grande richiesta. Buonasera, è bellissimo riavervi di nuovo qui. La scorsa settimana abbiamo avuto dei problemi tecnici che non ci hanno permesso, no, scorsa settimana, ormai due settimane fa, non ci hanno permesso di portare a termine la nostra puntata, ma volevamo, ci tenevamo tantissimo a farla questa cosa, questa puntata su musica e cinema. Voi siete due persone che vivono il cinema, abbiamo appunto un operatore e un'operatrice culturale del cinema Aquila, dico bene? Dici benissimo, e non solo. E non solo, perché abbiamo anche Giulio Mezza che è un attore e Gaia Siria Meloni che è una regista, giusto? C'hai anche... ci proviamo assolutamente. Allora, musica e cinema, relazioni pericolose. Come eravamo partiti l'ultima volta, dicevamo la prima cosa che viene in mente alle persone quando parliamo di musica e cinema sicuramente è la colonna sonora, ovvero diciamo la musica che viene appoggiata sopra le immagini di un film per creare effetto, per creare emozione, suscitare emozioni nello spettatore. Quindi devo fare la scena di Profondo Rosso, un po' di paura, ci metto una bella musica di paura così che lo spettatore si sente, va ad aumentare l'effetto che suscitano le immagini. Mentre noi volevamo provare a indagare un po' di più l'utilizzo della musica nel cinema, appunto nell'audiovisivo, come ci piace chiamarlo, proprio per mischiare le due cose. Quindi quei momenti dove la musica riesce ad andare oltre la colonna sonora e andare effettivamente a incidere sul film. Ci volete fare un esempio? Partiamo subito. Un film che è uscito recentemente è stato anche proiettato al cinema Aquila per molto tempo e che utilizza la musica in una maniera molto interessante. Sì, parliamo di Disco Boy. Vicino. Mi sentite? Ok. Sì. Parliamo di Disco Boy di Giacomo Abruzzese, che è stato un grande successo del cinema Aquila, ma non solo, siamo molto contenti perché insomma è uno dei pochi esordi alla regia che ci interessa vedere David di Donatello, noi che siamo grandi polemici sempre, quindi un regista veramente che esordisce con un lungometraggio e che partendo dalla sua diciamo preparazione da videoartista fa della sua opera di lungo che è Disco Boy un film veramente che ha a che vedere con immagini, musica e suono che hanno lo stesso livello di intensità e di importanza all'interno del film. Infatti ha scelto Giacomo non a caso uno dei DJ più forti e più interessanti della musica elettronica panorama internazionale che è Vitalik, che non è nuovo in realtà a collaborazioni con registi italiani, perché già lo fece con La leggenda di Kaspar Hauser, un altro film veramente super interessante ma di molti molti anni fa. Però Vitalik ci tiene nelle interviste numerose che ha rilasciato a dire che nella collaborazione con Giacomo Abruzzese c'è stato un rapporto veramente alla pari tra artista e regista in cui si è potuto veramente esprimere al massimo. Certo, quindi quando la musica viene proprio inserita nella sceneggiatura, quindi che non è una cosa che va, come spesso succede invece, che un regista o una regista gira il film, va al montaggio e poi dice ok, e qui che cosa ci mettiamo adesso? Io non lo so, in realtà io sono abituato a stare dall'altra parte, ma mi puoi confermare che solitamente la prassi quando una persona fa un film è tendenzialmente questa, no? Questa, esatto, a seconda di quanto interessa veramente la musica. Non è tanto il titolo Disco Boy, perché ovviamente ci sono tantissime immagini evoca, in discoteca, ovviamente, però è proprio un racconto, cioè le musiche di Vitalik sono un racconto parallelo a quello che accade, perché in realtà parliamo di, insomma, un film che è soprattutto una vicenda umana e devo dire le musiche sono clamorosamente narrative. Senza una parola, fra l'altro, perché è musica e basta. Giusto. Giulio, vuoi aggiungere qualcosa? Hai qualche altra riflessione su questo film? Riflessioni non lo so, però nel senso il bello di musica e cinema è quella cosa in cui nell'arte spesso capita, quando due arti vanno a confronto e si compenetrano, che è quella cosa in cui uno più uno fa tre, nel senso in cui prendi un'immagine, prendi una musica e quando le sovrapponi il risultato è più della somma delle sue parti, perché esce fuori un terzo elemento che è proprio la fusione di quell'immagine e quella musica insieme, che ti rende una terza opera diversa e molto più interessante. Giusto, giusto, che non va a sottolineare, non diventa didascalia, ma che aggiunge proprio nel... crea proprio un'ulteriore creazione proprio data dall'incontro di due forme d'arte. Giusto, molto interessante. Allora ve la facciamo sentire, che dite? Questo è Vitalik, Vladimir 92. Io. Vitalo Icone. Eccoci tornati live a microfoni aperti su Good News. Parlavamo del rapporto tra musica e cinema, insomma, delle sovrapposizioni, degli intrecci che ci sono tra queste due arti, l'immagine, no? e il suono. E parlavamo anche, insomma, di alcuni film che sono usciti recentemente, che abbiamo visto nelle nostre sale da poco. Abbiamo citato Disco Boy con questa hit a cassa dritta che abbiamo ascoltato adesso, Vitalik si chiama il pezzo, e continuiamo a parlare, insomma, di di lungometraggi in cui la musica ha un ruolo fondamentale, e ce ne sono diversi altri che sono usciti anche più mainstream, se vogliamo dire, insomma. Sì, assolutamente sì, mi inserisco ovviamente riportando un po' l'attenzione a casa nostra, cioè il cinema che abbiamo visto dentro al nostro cinema, quindi Cinema Aquila. E grandissimo successo è stato Perfect Days di Wim Wenders. Ovviamente parliamo di un budget totalmente diverso, un film enorme, candidato agli Oscar, ma che devo dire fa della musica assolutamente la sua narrazione. Non so se avete avuto il piacere di vederlo, ma in questo racconto che va tutto in sottrazione, perché praticamente non accade praticamente nulla in quel film, la musica racconta tutti gli stati d'animo del protagonista, che veramente ci porta all'interno di un suo giorno perfetto. E Wim Wenders non è nuovo ovviamente all'utilizzo della musica in un certo modo all'interno dei film, ma forse in questo riesce a fare una summa incredibile di tutto il suo grande amore e il suo essere enormemente colto sulla musica degli anni 70-80, indubbiamente. Sì, nel film in cui si sentono Patti Smith, Van Morrison, i Rolling Stones. Peraltro vorrei dire che Perfect Days smentisce una mia teoria, che è quella per cui nei trailer dei film più ci sono musiche chiappone, più il film secondo me è brutto. Cioè, quando guardo un trailer e sento che c'è una mina di quelle che dico Madonna, dico il film è orribile, secondo me. Vero. Invece Perfect Days c'è un trailer incredibile con ovviamente Perfect Days che nel film non c'è in realtà, c'è solo nei titoli di coda, e però poi in realtà il film è clamoroso perché c'ha questo utilizzo di musiche che in realtà è la narrazione, perché il film in realtà è una lunga meditazione sull'esistenza, e le musiche mai come in quel caso servono a portare avanti la storia. È vero, sì, poi appunto canzoni famosissime, proprio inni della musica anni 70, appunto, vabbè, oltre appunto a Perfect Day di Lou Reed, che non è proprio nel film, però Redondo Beach, Patti Smith, poi che altro c'è? C'è una Nina Simone, The Animals, House of the Rising Sun, cioè proprio canzoni proprio iper famose stiamo parlando, e però riescono comunque a comunicare perché c'è questo personaggio, no, che vive una vita serena, tranquilla, e quando entra dentro il suo furgone suona ancora delle cassette con queste canzoni che gli ricordano la sua infanzia. E Wim Wenders appunto è uno che con la musica ha un rapporto forte, in precedenza ha fatto anche documentari, no? Sì, quello sui Buena Vista Social Club, ovviamente, vabbè, un film straordinario, ma in tutti i suoi film, insomma, mi viene in mente anche Nel cielo sopra Berlino, in cui c'è addirittura dentro, c'è proprio David Bowie, sì, no? E fra l'altro dentro recita, aiutatemi prima che faccio la gaffe, Nick Cave, quindi giusto, insomma, pardon, veramente, cioè, fa parte del suo cinema sicuramente, esatto. Però è interessante qui perché veramente utilizza delle hit mega famose, però comunque le contestualizza in Giappone, sì, cioè laddove vero. Non pensiamo di incontrarle quelle canzoni, vero. E ci rende veramente tutt'uno, perché magari noi quella meditazione, quell'atteggiamento nella vita non riusciamo ad averla, eppure nel momento in cui sentiamo che parte Feeling Good dalla radio dici conosco questa sensazione, la conosco molto, certo, bene. Certo, ma poi che scena fenomenale quella finale. Esatto, e c'è anche quell'idea di musica diegetica o narrativa, perché lo spettatore ascolta la musica che ascolta il protagonista. Esatto, quindi spieghiamo musica diegetica e non diegetica, che è una cosa interessante. Diegetica nel senso è quando la musica è parte della narrazione, quando anche i personaggi ascoltano quella musica, certo. Ed è poi un concetto su cui torneremo magari con Kaurismäki, assolutamente, che gioca proprio su quello strumento lì. Però spesso invece come dire, la musica si abusa un po' della musica nel cinema per andare a compensare un po' dei vuoti o di sceneggiatura o di storia. Uno, secondo me, io mi immagino un regista, sì, dice vabbè, qua ci mettiamo una bella, sì, tracciona, e la narrazione va avanti da sé, a coprire, invece qua, esatto, raccontano, invece copre. Qui, esatto, la musica è proprio parte integrante nella narrazione, perché anche il protagonista, anche i personaggi sentono la musica che sente lo spettatore, quindi sei gettato proprio in quell'universo lì insieme ai personaggi, vieni completamente coinvolto, no, nella scena, anche perché poi i dialoghi sono quasi tagliati, quindi è come se la musica poi sostituisse il linguaggio vero e proprio in qualche modo. Esattamente, è sempre quell'idea di 1+1=3, nel senso che un film, un universo in cui quelle canzoni esistono, perché poi spesso quando la musica non è diegetica, quindi quando la musica messa sopra le immagini come una cosa esterna, extradiegetica. Esatto, in realtà è un po' una situazione diversa, perché tu senti un po' più l'intervento del regista e del mondo esterno. In questo caso invece è proprio il film che contempla e che viene portato avanti da quelle tracce lì. Mi permetto di fare un paragone proprio registico. In questo caso è come se la musica fosse dialogo e non è come il voice over o la voce di Dio che una volta veniva detta, cioè la voce che copre le immagini. Qui parliamo di altro, di dialogo, musica come dialogo. Giusto, giusto, giusto, molto interessante. Allora ve la facciamo sentire questa canzone diegetica ascoltata dal protagonista di Perfect Days, peraltro vincitore del premio miglior attore a Cannes, se non sbaglio, sì, no? E lui adesso mi sfugge il nome, ma in realtà è un attore importantissimo, sì, in Giappone. Quindi sì, questo è stato anche un... No? No? Sì, sì, sì, no, non pensavo vi chiedevi. No, no, no, no, non ci ricordiamo. Pessima ignoranza, ma andremo sicuramente a recuperare in questa pausa. Vi facciamo sentire e Van lo salutiamo Morrison. Anche. E lo salutiamo. Sicuramente ci sta ascoltando. Sì. Questo è Van Morrison, Brown Eyed Girl. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la la ti da, la ti da. You have grown. Cast my memory back a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing? Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 19.05, questa è Good News. Questa che avete appena sentito era Brown Eyed Girl di Van Morrison, una canzone che era dentro il film Perfect Days di Wim Wenders, dove il protagonista, interpretato da un grandissimo attore giapponese per la quale la nostra Vittoria ha googlato il nome, Koji Yakusho. Koji Yakusho, facciamo un applauso. Ha detto il... il favino giapponese. Complimenti a lui e a Favino. Grande applauso. No, però veramente una performance incredibile. In quella scena finale è veramente straordinario. Che meraviglia. È veramente incredibile. E, ma veniamo all'Italia. Veniamo a un regista che secondo me è uno di quelli che si è sicuramente impegnato di più, insomma, nel cercare di dare, è una cosa che sicuramente gli sarà venuta naturale, però nel cercare di dare un valore e un ruolo forte alla musica nei suoi film. Stiamo parlando di Nanni Moretti, il film è Il Sol dell'Avvenire, che è anche uscito nel 2023, sempre partecipante in concorso al Festival di Cannes, sì. Dove il protagonista, ovvero Nanni, a un certo punto dice voglio fare un, è un regista che dice proprio voglio fare un film con tante canzoni italiane, che è una frase molto simpatica secondo me, e questa cosa poi la fa nel corso del film, ci sono tante canzoni italiane, ma che cosa ci potete dire a riguardo di questo esempio che abbiamo preso? Beh, vabbè, Nanni Moretti è amatissimo da tutti i presenti e ha avuto anche lì un grandissimo successo anche da noi l'anno scorso, e fra l'altro è uscito più o meno durante la liberazione. Il Sol dell'Avvenire ha avuto un significato anche interessante per quello che riguarda il mondo del cinema, perché lui parla proprio anche del Sol dell'Avvenire cinematografico, ed è un po' una summa veramente questa di tutto il suo cinema, perché l'utilizzo della musica, come giustamente dicevi, fa parte a tutto campo della sua cinematografia. In particolare in questo film si autocita più volte, e addirittura c'è appunto una scena che lui riprende chiaramente dalla stanza del figlio, suo grandissimo successo e mi permetto di dire il suo film migliore, e mi spiace, sono sincera. Endorsement non me ne vorranno anni. Però appunto dove vediamo questa scena incredibile in macchina, in cui in macchina si canta, ed è l'unico momento in cui ci accorgiamo che la famiglia, che poi insomma dopo subirà un grandissimo lutto, è finalmente unita. E niente, lui sceglie di utilizzare questa grandissima azione, che è quella di cantare insieme in macchina, che è molto liberatoria, che conosciamo noi tutti, e di riutilizzarla anche nel Sol dell'Avvenire con tutt'altro tipo di diciamo livello simbolico, perché ora qui si canta come liberazione, ma come liberazione diciamo dal cinema che un po' lo opprime, per arrivare poi invece in sala, sul set quando deve girare, per cantare liberamente con tutti. E che canzone canta? Una canzone incredibile che è Voglio vederti danzare, del maestro enorme, gigante, indimenticato, Battiato. Franco Battiato. E Giulio, volevi aggiungere qualcosa a riguardo? No, la mia riflessione, che ormai ora sono quello che riflette, sono l'uomo delle riflessioni. Sei riflessivo. No, Nanni Moretti è uno dei registi che più ha sperimentato negli ultimi forse 30 anni di cinema italiano, e che ha giocato anche proprio con il mezzo filmico. Ha giocato, sì, assolutamente. Quindi anche il rapporto tra musica e immagini, appunto. Tutti i film in cui lui canta in scena, appunto il Insieme a te non ci sto più da Caselli, o Sono solo parole, sono solo di parole, Noemi. Stupenda quella scena. Quella scena lì sono scene che subito ci portano a un manifesto di un tipo di cinema, il lato anche più felliniano forse di Nanni Moretti, perché noi sì. Spesso viene sempre, come dire, ricordata la sua parte molto ideologica, programmatica, però in realtà è anche proprio un artista che si è divertito e si diverte a giocare con il cinema, certo. E la musica comunque è una parte che gli ha permesso di entrare e uscire anche a lui dalla narrazione, perché le canzoni, specialmente in questo film, sono proprio un momento di straniamento dalla narrazione, quindi è proprio lui che prende la telecamera e dice adesso vi faccio vedere, adesso mi diverto. Ed è super interessante vedere come lui entra e esca dalla narrazione sfruttando la canzone come divertissement. E fra l'altro le canta tutte, cioè le fa sentire tutte malissimo, peraltro, questo è divertente. Male, cioè, le fa quando lui canta Sono solo parole, la canta proprio stonatissimo, malissimo. Ed è proprio divertente, perché è proprio uno sfogo, conoscendo appunto il suo cinema, quindi Caro Diario, lui che utilizza proprio il cinema come sfogo personale, è bello perché proprio sembra un bimbo che canta in cameretta. Certo, sì, e poi l'ironia, che appunto è sempre anche quell'ironia felliniana comunque. Poi questo film in particolare, cioè, c'è un grande 8.5 che insomma ripercorre vari aspetti. Wow, ma quanto è bello parlare con voi, veramente vi ringrazio molto di essere qui con noi oggi. Adesso il nostro Peppe qui alla regia ci farà sentire una canzone presente nel Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, che è Voglio vederti danzare, di Franco Battiato. Che salutiamo. Darling, darling, Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Sette e un quarto, torniamo su Good News. Abbiamo appena sentito una grande canzone del maestro Battiato, nonostante il nostro Peppe alla regia abbia provato a boicottarlo. Perché Stand By Me è il mio pezzo preferito, quindi non volevo vedeva metterlo l'ora a tutti sentirlo. I costi. E quindi c'è stato un attimo di così, però poi l'abbiamo riportato sulla retta via. Esatto. Citando appunto il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Insomma, sì, continuiamo a parlare di musica, continuiamo a parlare di musica che accompagna il cinema o viceversa, anche forse di cinema che accompagna la musica in qualche occasione. Non lo so, voi che ne pensate? No, ma i legami sono veramente infiniti, perché parlavamo anche prima in pausa di... Cioè è la musica che entra nel cinema, ma spesso può essere anche il contrario, perché appunto abbiamo tantissimi film di musicisti o documentari o registi che si prestano al videoclip, quindi diciamo spesso, noi adesso stiamo parlando spesso della musica che entra nei film, però a volte anche il cinema che si accompagna, per esempio adesso abbiamo un film in sala che è Confidenza di Daniele Lucchetti. Ah, certo. Le cui musiche sono fatte tutte da Tom York. Come non parlare di questa cosa, musiche completamente inedite e nuove, quindi è sempre lì il potere del quando, insomma, come dire, due artisti, perché spesso il regista a noi ci sembra sempre più, come dire, il cinema specialmente in Italia viene molto visto come narrativo, cioè un cinema cinema e racconta una storia. Sì. Però spesso invece un regista è anche semplicemente uno che utilizza delle immagini per mostrare qualcosa. Per esempio Peter Greenaway, che è uno dei registi preferiti da Gaia, quindi adesso lascio a lei la parola, però è uno dei registi che proprio disegna dei quadri e poi, come dire, con Michael Nyman, che è l'autore con cui lavora sempre. Non solo, anche con Wim Mertens, grandi minimalisti tedeschi che fanno della musica meravigliosa, magari non adatta alla radio, ma veramente straordinaria. E infatti i miei registi preferiti sono quelli, non sono solo registi. Peter Greenaway è un pittore, quindi sa perfettamente quanto siano importanti tutte le componenti del cinema, per cui la musica assolutamente racconta come un quadro, nel caso di Peter Greenaway, i suoi film. Volevo aggiungere una cosa su Thom Yorke, che per me è assolutamente indimenticabile, la sua collaborazione con Luca Guadagnino. È il adesso è il secondo film che fa con un regista italiano, no? O ne ha fatti altri? Lui no, in Italia ha fatto Suspiria. Credo solo Suspiria, che per me faccia altro endorsement. Il film migliore per me di Guadagnino, su cui secondo me Thom Yorke fa veramente una roba incredibile, come solo lui sa fare. Adesso per abbassare un pochino il livello culturale, ma di pochissimo, vorrei darvi una chicca, nel senso, però sempre per riflettere sulla potenza della musica, come dire, in rapporto all'immagine, cosa che già i registi sovietici degli anni 20 ci insegnavano. Se andate su YouTube c'è un trailer meraviglioso di Mrs. Doubtfire, non so se lo ricordate, però insomma film... proprio manifesto anni 90-2000, io da piccolo Robin con Robin Williams. Robin Williams, certo. C'è un trailer di Mrs. Doubtfire horror. Bellissimo. Cioè, ci sono dei pezzi di Mrs. Doubtfire presi e sono stati montati con una musica di tensione costante. E quello se tu guardi quel trailer, dici questo è un horror, perché ci sono dei pezzetti che sono proprio del film, che in realtà nel film sono comici, però con una musica inquietantissima, e in realtà ti fanno cagare sotto, nel senso, quindi quello è anche il potere della musica, di come la musica poi colora le immagini, quindi in realtà è proprio quella potenza lì del montaggio, che poi è l'arte per eccellenza del cinema, che, come dire, unita a un'immagine, una musica, ti racconta completamente qualcos'altro. Comunque, per abbassare ancora di più il livello, scendiamo. Dicevamo la storia dei videoclip, la musica, i registi, non mi ricordo adesso, il regista dei videoclip di Liberato ha fatto una carriera su questa roba. Sì, tutta la storia degli adolescenti innamorati. Certo. Com'è che si chiamava? Francesco Lettieri, se non sbaglio. Francesco? Sì. Assolutamente. Giusto. Assolutamente. Infatti è ritornato lui, mi permetto di allacciarmi un attimo, perché lui si è rifatto tantissimo a quello che era il meccanismo in realtà del fotoromanzo. Cioè, ha ripreso una roba antichissima degli anni 60, l'ha trasformata con grande intelligenza. Ora sul suo mondo cinematografico ho dei dubbi, però sul suo mondo narrativo ha fatto un'operazione interessantissima sul videoclip. Molto vero, molto vero. Poi invece, come si chiamava quel regista che ha fatto un film molto bello, che suggerisco a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che si chiama Atena, che se non sbaglio sta su Netflix, e il regista si chiama, aiutai, Roman Costa Gavras, il figlio di Costa Gavras, che è un film molto interessante, che parla di banlieue, parla di ragazzini nelle periferie di Parigi che in generale, insomma, reagiscono alle violenze che subiscono da parte della polizia, con una rivolta nel quartiere, che poi appunto il film assume una dimensione assolutamente epica ed è molto molto interessante, e ricordava molto una dimensione da videoclip. Lui viene dalla pubblicità e dal videoclip, esatto, ma parlavamo di questo proprio prima, di come comunque anch'io ho visto alcuni film recentemente, e mi sembra che il mondo del videoclip sia sempre più entrato nel cinema, in quanto il videoclip ormai è una cosa che in generale te la sconsigliano un pochino da dentro l'industria musicale, cioè ti dicono il videoclip lo fai quando c'ha senso che lo fai, cioè se Dua Lipa fa il videoclip magari milioni di persone se lo vedono, ma che salutiamo Dua Lipa assolutamente. Peraltro ha appena fatto uscire un videoclip anche lì incredibile, con una coreografia stupenda, insomma c'è una narrazione, se lo fa Liberato oppure, però se lo fai tu artista piccolo indipendente non ha molto senso, è quello che ti viene detto, e invece mi sembra che il cinema abbia preso tecniche e modalità da videoclip e le abbia integrate. Noi siamo cresciuti, io parlo della mia generazione, sono del 93, con registi americani che si sono, che venivano dal videoclip, perché sì, David Fincher, Paul Thomas Anderson, tutta quella classe di registi americani lì è partita dal videoclip. Certo. Quindi sono tutti registi, perché sono i registi nati con il digitale, con la handycam, quindi con la videocamera digitale, e sono partiti e continuano, perché Paul Thomas Anderson continua a fare videoclip per diversi artisti, anche Licorice Pizza. Ed è un film straordinario. È straordinario, la protagonista, lei è la cantante a cui lui faceva i videoclip, quindi nel senso è vero che sono un po'... Dai. Poi noi siamo appunto una generazione nata e cresciuta con MTV, certo, quindi che adesso è cambiata totalmente, appunto Video Killed the Radio Star, nel senso comunque anche troppo quella roba vero lì è terminata. Però sì, si è un po' fusa nel cinema, o comunque in questa, come dire, onda di immagini da cui ormai siamo sommersi, che quindi passano da, appunto, tra videoclip, cortometraggio, lungometraggio. Certo. Però è interessante questa riflessione dal punto di vista dell'artista, del cantante, sì, e quindi sì, il videoclip è un po', come dire, ormai una roba un po' anni 90-2000. Sì. Scusate, però non possiamo non citare Gus Van Sant. Io sono del 1990, quindi torno ancora più indietro, però il vero regista videoclipparo era Gus Van Sant, che lui ha fatto dei film molto underground su quell'idea dei videoclip underground come erano all'inizio, cioè fatti veramente con l'handicam. Su Paul Thomas Anderson, non che iniziamo subito su una ricerca estetica che piano piano si è avvicinata forse a quello che dice Leo. Secondo oggi me sì, con Paul invece Thomas se uno Anderson, guarda sì, la fortuna di vedere film che consiglio, quali Paranoid Park, che secondo me è un capolavoro, o Elephant di Gus Van Sant, si sente quel mondo un po', diciamo, videoclipparo, ma è sicuramente un mondo più underground. Sì, ecco, per un periodo i videoclip sono stati anche proprio terreno di sperimentazione per registi, anche Smack My Beach Up, cioè era un videoclip incredibile, tutta sì, quella soggettiva dei lì, prodigi, con sì, dei prodigi, esatto. Giusto. È stato assolutamente, oltre alla traccia incredibile, ma il videoclip è stato parte integrante di quel della successo, canzone. Per non andare indietro a Thriller di Michael Jackson, ah, che è stato il videoclip più costoso della storia, perché era proprio un film, è stato anzi molto più costoso di tantissimi film. Giusto. Tutto questo per dire alla fine che da Tom York ha liberato è un attimo, cioè ci va un secondo proprio. No, comunque ci faceva notare, ci arrivava un commento dall'esterno, un contributo, un commento su Atena, che dicevano che in realtà la narrazione che fa Atena della banlieue di Bruxelles in realtà è un po' stereotipizzata. Io in realtà il film non l'ho visto, mi ricordava un po' quando è uscito Les Misérables, che sì, sicuramente sì, non si pronuncia così, che invece ho visto. Beh, è stato presentato a Venezia 2022, se non sbaglio. Era stato un film che ha diviso molto, perché era stato considerato molto giovanile, molto, molto, diciamo, street, però al tempo stesso anche è stato accusato di estetizzare un po' e di sfruttare un po' quella roba lì, in realtà raccontandola, come dire, semplificando un po' il tema e utilizzando l'immagine. Poi andava, è stata anche molto, diciamo, per noi cinefili c'erano molti backstage in cui c'era quella scena in cui loro andavano col motorino, sì, insomma, diciamo, è sempre l'impiego, come dire, di quella roba, esatto, lì un po' veniva anche spettacolare. Ha anche vissuto un po' sempre quell'onda lunga dell'onda lunga dell'odio anche di tutto quel tipo di cinema francese. Ma infatti ti volevo dire che hai assolutamente ragione, vero, perché i produttori esecutivi in realtà sono gli stessi delle Miserable, quindi parlammo più o meno la stessa lingua, che è la lingua estetizzante di tutto quello che è stato il mondo underground di un tempo, che appunto poteva essere l'odio. Ad oggi sappiamo raccontare così le cose, sono d'accordo che poi rende tutto un po' stereotipato e rende tutto molto laccato sicuramente, però ad oggi raccontiamo così quel mondo là, cioè abbiamo un problema secondo me proprio di rappresentazione di quel assolutamente mondo. È un vero problema. Penso che su questo poi si apre forse un vaso di Pandora, sì, una parentesi enorme, vari Gomorra, le rappresentazioni dovremmo farci un'altra Italia, puntata, faremo un'altra sì, puntata, no, altre due praticamente, quindi. Però è bello, lo spettatore di Radio Onda Rossa è sensibile all'argomento, come anche al nuovo cinema, quella quando gli spettatori ci correggono è bellissimo. Bello. Apprezziamo molto. Vi facciamo sentire un altro pezzo di Fela Kuti, Zombie, perché quest'anno è uscito anche un documentario su Fela Kuti diretto da Daniele Vicari, e è un artista veramente incredibile. Questa canzone si chiama Zombie e ve la facciamo sentire sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Thank you. Fela Kuti, Zombie. E, sempre qui con Gaia Siria Meloni e Giulio Mezza. E, volevamo parlare un attimo adesso, in quest'ultimo quarto d'ora che ci resta di trasmissione, di film su artisti o artiste, cantanti, e se ci piacciono o meno. Nel senso, è una scelta, secondo me, molto comoda da un punto di vista di un produttore, fare un film che parla di un personaggio che è già super famoso, del quale tutti sono appassionati, e portarlo nelle sale cinematografiche, già sei abbastanza, insomma, molta gente probabilmente lo andrà a vedere, no? Molti, secondo me, sono esperimenti falliti, perché comunque è uscito il film su Bob Marley, è uscito il film su su Freddie Mercury, insomma. Certe volte da spettatore non mi sono sentito soddisfatto di quello, di quello che vedevo. Voi che ne pensate? Abbiamo degli esempi invece di film che raccontano un personaggio e che sono riusciti a farlo, o che comunque sono riusciti a raccontare una storia interessante? Ma sì, secondo me, come sempre, dipende quanto il quanto intanto l'autore, ossia il regista, come dire, conosce la materia e quindi non si limita a raccontarti una storia in una, come dire, in un modo in cui si crea un po' l'effetto karaoke, ossia sì, tu racconti la storia, ci sono le canzoni sotto perché c'hai i diritti, spesso il biopic è tratto da un'autobiografia di un romanzo, del romanzo, insomma, di qualcuno che ha scritto l'autobiografia, la biografia, e quindi ti rendi sempre conto che c'è un po' una roba, una geografia un po' celebrativa. Invece, secondo me, secondo noi, artisticamente è più bello quando il regista si prende delle libertà, si discosta anche dalla vita, dal cantante proprio come a deve somigliare, e prova attraverso il film a sintetizzare con un atto creativo proprio una creazione, provandoti a raccontare l'autore o l'artista, piuttosto che la sua vita, proprio la sua arte. Quindi, certo, appunto, abbiamo citato prima in pausa Io non sono qui, che bellissimo, è un film bellissimo di Todd Hines, in cui lui prende dei pezzi di vita di Bob Dylan, li fa interpretare a tutti attori diversi, non si chiama mai Bob Dylan il protagonista, ma in un certo senso tu riesci sempre a ritrovarci qualcosa di quell'autore. Sempre a proposito di Bob Dylan, è anche molto interessante Inside Llewyn Davis dei fratelli Coen. Ah, bellissimo, che racconta, giusto, in qualche modo la storia di un Bob Dylan che non ce l'ha fatta. Adoro, di un, quindi, non Bob Dylan, di tutti quelli che non erano Bob Dylan, tutti quelli che erano simili a Bob Dylan ma che non erano Bob Dylan. Quindi ti racconta quel periodo storico, quella New York lì degli anni 70. E ce ne sono tanti, secondo me, di film belli, specialmente anche Control, bellissimo. Sul Ian Curtis, su Ian Curtis, film che anche lì ti racconta più l'humus culturale da cui lui è nato, piuttosto che proprio raccontarti tutta la sua relazione con la droga, con le convulsioni, perché quella la conosciamo già. È bello, io vado a vedere un film su un autore quando mi dà qualcosa in più, non quando mi racconta qualcosa che già so. Cosa ne pensi, Gaia? Beh, io penso che i meri biopic siano comunque un'operazione molto americana, tant'è che, per parlare di incassi, che normalmente invece è il tema di Giulio, in Italia non incassano praticamente niente questi film, dai. Tant'è che Bob Marley, il film su Whitney Houston, non incassano, perché in realtà noi non siamo abituati a quel tipo di narrazione molto americano. Tant'è che da noi ha funzionato solamente Bohemian Rhapsody, probabilmente perché era il primo che tentava di fare quell'operazione lì, operazione karaoke, un po' come dice Giulio. Mi astengo da film mi è piaciuto o meno, ma comunque sia, perché non lo so, effettivamente era un'operazione zero per me, quindi sono andata, mi è piaciuto cantare in sala con tutte le persone che cantavano in sala. Ora, questo fa di quello un bel film? Lui faceva effetto tale e quale show? Era veramente bravo a fare Freddie Mercury? Non lo so, ma credo che quella è stata l'operazione zero che è funzionata. Per il resto penso che le cose che veramente raccontano un cantautore o comunque un artista sono operazioni artistiche. Cioè, l'operazione di Todd Hines è un'operazione da cantautore, quasi, che racconta un cantautore, quindi sta a livello di Bob Dylan, se lo può permettere raccontarlo in quel modo, probabilmente per l'ultima volta nella sua carriera, almeno finora. E però volevo citare, ora sembra che faccio fan club di Gus Van Sant, però comunque un film bellissimo di Gus Van Sant, che è Last Days, che fa più o meno la stessa operazione, ma ancora più spinge l'acceleratore perché cerca di raccontare gli ultimi 3 giorni di vita di Kurt Cobain, facendolo interpretare da Michael Pitt, per me sottovalutatissimo attore, interessantissimo, che è un cantautore, esatto, che è un cantautore e musicista, al quale fa interpretare tutto il tempo palesemente Kurt Cobain, perché è lui, si veste come lui, ma non c'è una canzone di Nirvana all'interno di quel film. L'unica canzone che viene cantata è una canzone che scriverà lo stesso Michael Pitt, immaginando fosse l'ultima canzone che Kurt Cobain scrive prima di suicidarsi. Un'operazione artistica interessantissima, e là però parliamo di arte, non parliamo di biopic. Quello mi interessa. Tra l'altro, io sempre sono qua ad abbassare il livello quando volete. E lo vogliamo, lo vogliamo. E mi è capitato di vedere ultimamente invece la miniserie fatta da Netflix con Marinelli su De André. Difficile, eh? Mamma mia! È complicato, quella era uscita sulla Rai 4-5 anni fa. Ah, vedi? Sì, sì. Beh, lì tante cose non hanno funzionato come dovevano. Con la musica non c'è. La poi musica non l'ho finita, ammetto, però sai, poi appunto ti ripeto, per raccontare insomma un personaggio complicato, per raccontare un artista serve un artista. Ora al di là di quel è chiaro che quando fai un'operazione, c'è stata anche quella su Rino Gaetano con Claudio Santamaria che interpretava Rino Gaetano, non è mai secondo me responsabilità dell'attore, certo, o del regista, della sceneggiatura, ma è sempre proprio se alla base c'è un'idea, un concetto artistico, quindi di utilizzare una vita o un'opera artistica per raccontare qualcos'altro, oppure semplicemente c'è un romanzo per immagini che a quel punto diventa un po', probabilmente anche più pop, perché a volte bisogna anche fare delle operazioni un po' così per il grande pubblico. Però, come sempre accade, i conoscitori di quell'artista rimangono puntualmente delusi. Per esempio, adesso c'è La Voce che gira da tantissimi anni e adesso sembra che stia andando un po' in porto, in cui Martin Scorsese ha acquistato finalmente i diritti per raccontare Frank Sinatra, perché da anni c'è questa storia in cui la famiglia di Sinatra non concede i diritti proprio per tutte le, come dire, le contraddizioni di Frank Sinatra. E io mi aspetto che se Martin Scorsese scende in campo per raccontare una storia, quella storia lì, mi porti alla luce un po' di oscuro e utilizzi Frank Sinatra, che è un personaggio gigantesco, per riflettere un po' su qualcosa, su quel concetto, su un concetto che ha attraversato Frank Sinatra. Quindi, per esempio, quello, Martin, contiamo su di te. Non ci deludere. Almeno tu. Salutiamo anche lui. Salutiamo anche Martin. Esatto. E lo invitiamolo. Invitatelo qui a Radio Onda Rossa. E poi invece, per parlare di l'ultimo film probabilmente che citeremo nel corso di questa puntata, Amy Winehouse, cosa ci potete dire su Amy Winehouse? Io sono una grandissima fan di Amy Winehouse, devo dire, tra l'altro è morta il giorno del mio compleanno, quindi me la sento proprio vicinissima. Penso che lei è stata veramente raccontata a tanti livelli, e forse nel migliore dei modi in Amy, il documentario 2015 Oscar miglior documentario. Ma comunque è stata una delle ultime icone, che però era a cavallo nel momento in cui c'era quella grande morbosità del vedere la decadenza dell'icona quando sta per morire. Per cui temo tantissimo questo film, infatti ancora non l'ho visto. Mi piace ricordarla lei vera, lei interpretata. Ho sempre qualche dubbio che riesca a cogliere le sue sfumature, perché è stata molto chiusa in se stessa, quindi dubito sempre tanto su questi personaggi così chiusi, a meno che non si fa un'operazione in stile appunto The Last Days o Io non sono qui. Cioè andare a prendere dall'arte di quelle persone e tirarne fuori altra arte. Vedremo. Difficile. Beh, anche perché appunto prima parlavamo di una visione stereotipizzante, laccata delle banlieue, anche sulle storie spesso di dipendenze, droga, di vite frastagliate, insomma in qualche modo c'è un po' questo racconto mega dramma, mega, no, che deve romantico pure quello. Esatto, esattamente, che tende un po' a essere troppo alle volte. Sì, anche The Doors, Oliver Stone ha fatto il film con Val Kilmer che interpretava Jim Morrison, e ai tempi suscitò polemiche perché insomma era un film, non lo so, quando vai a prendere quei giganti, secondo me è preferibile prendere soltanto una piccola cosa e guardarla da vicino piuttosto che provare a raccontare tutta la vita, perché poi ognuno, specialmente i fan, proiettano su quella roba lì chi è stato l'artista per loro. Mm-hmm. Cioè Jim Morrison per me è qualcosa, per me è qualcos'altro, per mio padre è qualcos'altro ancora. Sì, e soprattutto non edulcorare, che è una cosa molto poco diciamo dignitosa per questi personaggi così grandi. Quindi non vogliamo una Amy Winehouse edulcorata. Certo. Ce la sentiamo, direi. Ce la sentiamo. E 43 minuti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, posso dire pazzesca, di oggi su musica e cinema, relazioni pericolose. Questo era l'ultimo pezzo, Back to Black di Amy Winehouse, insomma penso che lo conosciamo tutti, ma è sempre piacevole riascoltarlo. Noi ci risentiamo lunedì prossimo dalle 18.45 alle 19.45, sempre sugli 87.9, sempre su Radio Onda Rossa. Piccolo annuncio, martedì 30 aprile, ovvero domani, dalle ore 20 al CSOA ex SNIA, cena palestinese benefit per la Palestina, dalle 21.30 cabaret astrologico di Astronza, dalle 22.30 live dei Serpe in Seno, a seguire DJ set di Paloma, Easy Peasy Lizzy, Electro Dance Trash, insomma un evento molto bello, molto importante, vi aspettiamo tutti e tutte. Volevo ringraziare tantissimo Gaia, Siria, Meloni e Giulio Mezza. Grazie a voi, è stato molto bello. Quasi speravo in un altro blackout in modo di poter tornare tra due settimane. Quando volete ragazzi, quando volete. Grazie, c'è due mille. Senza tre. Un saluto. E alla prossima. Ciao. some kind of cure, but sure it won't make me feel as high as I feel when I'm down. And it comes that I